Nella lezione di Halakha affronteremo nel Kitzur alcune halakhot che riguardano Rosh Hashanah. Vediamo cosa dice il testo. Bechol ha-Kaddishim, in tutti i Kaddishim, ogni volta che si recita il Kaddish, Sheomerim, che si recita me Rosh Hashanah ad Yom HaKippurim, da Rosh Hashanah fino a Yom HaKippurim, incluso, Koflin Teivat Le'ela. Questo è l'uso ashkenazita, che tutto l'anno nel Kaddish si dice Le'ela min kol birchata. È anche uso sefardita. Invece l'uso italiano è che si dice Le'ela u Le'ela min kol birchata. Vero? Cosa significano queste parole? Le'ela in aramaico significa le mala, più alto di, al di là, al di sopra di ogni berachà e lode, eccetera, eccetera, che si dica che il nome di Dio sia benedetto al di là di ogni nome, ogni descrizione di grandezza e di lode che gli si può dare in questo mondo. Allora, le'ela significa al di sopra di, al di là di. Quando si dice le'ela u le'ela, al di là e al di là ancora, al di sopra e al di sopra ancora di questo. Che l'uso romano italiano è che si dice tutto l'anno così. E c'è anche un'usanza yemenita che segue questa stessa usanza. Ma la maggior parte del mondo ebraico dice tutto l'anno le'ela, un livello. E a tra Rosh Hashanah e Kippur aggiungono la parola le'ela u le'ela. E quindi a questo fa riferimento qui. וכיוון שבקדיש צריכים להיות כף חטבות, visto che nel Kaddish è scritto che, secondo la Kabbalah, nel Kaddish ci devono essere 28 parole, allora se si aggiunge la parola Le'ela, significa che sono 29. Allora qual è la soluzione? Bechol ha-Shana umrim Le'ela min kol birchata, al di là di ogni benedizione. Quando si ripete la parola le'ela e di nuovo u le'ela, allora si toglie una parola, perché invece di dire min kol birchata si dice mikol birchata, che ha lo stesso significato, però si unisce la parola mi alla parola kol. Invece di min kol, mikol. Omrim ata si dice le'ela le'ela mikol birchata. Tutti i 10 giorni, sì, che vanno da Rosh Hashanah fino a Kippur. Ma sulla defilà c'è scritta però. Sì. Secondo paragrafo. Yesh nohagin, c'è chi usa le hitpallel, nohagin, verbo che viene da minhag, usanza, nohagin, usano. Yesh, c'è chi usa le hitpallel. Cosa significa le hitpallel? Le hitpallel, tefila, le hitpallel, pregare. Berosh Hashanah uviyom ha-kippurim, kol tefilot shemonesre. C'è chi usa fare tutte le tefilot di Amidah, Shmoneh Esrei di Amidah, durante Rosh Hashanah e Kippur, Bikri'a u Bikfifat HaRosh. Bikri'a significa piegati e con Kfifat HaRosh, la testa chinata. China. Ok? Piegati che intendo? Così piegati con la schiena e con la testa inchinata per tutta la durata della Amidah durante Rosh Hashanah e Yom Kippur. Facciamo già così. Infatti. No. No. La Amidah si fa in piedi, in piedi, in dritti. Retti, e in certi punti ci si inchina, vero? Sì. Allora qui sta dicendo che alcuni hanno l'usanza di tenersi chinati tutta la durata della Amidah. No. Ve omnam. Uno deve stare per forza così. Non deve stare per forza, ascolta un attimo. Ve'omnam kevan she'tzrichim likroa, visto che però, siccome che in alcuni punti bisogna comunque inchinarsi, come per esempio Birkat Magen Avraham, i due, l'inizio e la fine di Magen Avraham e l'inizio e la fine di Modim, ube Modim, bitchila u basof, all'inizio e la fine di queste due brachot, e quello è un obbligo. Quindi bisogna dare una distinzione, fare una distinzione tra quello che vuole stare chinato per dimostrare la sua sottomissione ad HaKadosh Baruch Hu in questo periodo, distinguere questo dall'inchino obbligatorio di questi quattro punti della Amidah. Quindi cosa dovrebbe fare? Al Ken, di conseguenza, si comporta nella seguente maniera. Kodem Shemagia Limekomot Eilu, prima di giungere, le Hagia, giungere, prima di giungere a questi punti della tefilà, Tzarich Lizkof et Atzmo, deve tenersi letto, quindi non china, non si china più. Kedei Sheyichra ke mitzvat Chachameinu Zichronam Livracha, in modo tale che possa inchinarsi in quei quattro punti come se, da seguire le istruzioni dei nostri maestri. Ok? Gam, inoltre, assur lichroa bitchilat bracha o besof bracha, è vietato chinarsi all'inizio o alla fine di una bracha, che non è che non è una di queste quattro che i maestri hanno indicato. Bemakom shelotiknu chachameinu zichronam bracha, in un punto in cui i nostri maestri non hanno istituito che bisogna farlo, non lo si può fare, non solo non lo si deve fare. Se a volte mi è capitato di vedere qualcuno che ogni volta che si dice Baruch Atah nell'Amidah si inchina come se fosse Modim o Magen Avraham, è vietato farlo, perché i maestri hanno voluto dare particolare peso, attenzione, peso a queste quattro berachot, questi quattro punti in cui ci si inchina, quindi farlo in altri punti è contro l'istruzione dei Chachamim. Uno si inchina e poi si rialza. Sì. Invece su Modim no, però. Modim solamente fatto così, mi hanno detto. Sì, si china, l'unica differenza è che all'inizio di Modim ci si china solamente senza piegare le ginocchia, sì, vero. Cioè la differenza delle altre volte, giusto, giusto. Ora però, nonostante esista questa usanza, l'Alakha dice così, Vetov Yoter è meglio però, Leitpallel Beivarim Zkufim, di pregare con il corpo retto, ubelev kafuf, e con il cuore chinato, uvidmaote, con le lacrime. Stiamo parlando di Rosh Hashanah Kippur. Quindi è più importante cercare di chinare il corpo e le cuore che il corpo. Ma se nohagin litpalel bekol ram yesh levatel. E coloro che usano pregare la Amidah di Rosh Hashanah e Kippur ad alta voce, questa è una cosa che va annullata, cioè vanno fermati, perché chi yesh litpalel belachash kemo bekol hashanah. C'è da fare la Amidah di Rosh Hashanah e Kippur a bassa voce come si fa tutto l'anno. Anche se yesh matirin, alcuni permettono, come mutar, permesso, matirin permettono, le hagbia kolo, di alzare la voce me'at. Me'at significa? Poco, un po', leggermente. Avallo harbe, ma non troppo, tanto. Inoltre un'altra istruzione, yizaher, la persona faccia attenzione, le dakdek, a fare, ad essere preciso, dikduk letteralmente significa essere precisi, precisare, come le dayek, bidyuk, esattamente, giusto? Bidyuk, esattamente. Quindi le dakdek, essere molto esatti, bitfilato, nella propria tefila, hetev, in maniera bene, shelo yeshane shum nekuda, per non cambiare un puntino, una vocale, perché se si cambia una vocale, la si sostituisce per sbaglio con un'altra, può cambiare tutto il significato della parola e della frase. Allora bisogna piano in Amidah. Esatto. Specialmente Rosh Hashanah e Kippur, che sono Amidot, che non siamo abituati a leggere tutti i giorni. Uno potrebbe anche prepararsi prima a leggere piano piano la tefilà. Bravo. Veye Hader, la persona faccia attenzione alla mitzvah, nel senso di Hidur, l'abbellimento della mitzvah, facendo che cosa? Yadera Harsiduro Machzor, che vada a cercare un libro di Tefilah, un Meduyak Hetev, che è ben preciso nel modo in cui è stato stampato e controllato prima della stampa. Litpallel Mitocho, per pregare da un libro, un formulario che è preciso. Se uno dice la tefillà per studiarsela, quando c'è il nome di bisogno di Hashem. Sì, bravo. Allora, paragrafo terzo. Ora abbiamo alcune regole che bisogna imparare per pregare bene da Rosh Hashanah a Kippur. Kol Hashanah, tutto l'anno, Omrim Batefilah, si recita nella Tefilah le seguenti parole. Hakel HaKadosh, la terza berachah dell'anno, Baruch Atah Hashem, Hakel HaKadosh. E poi più avanti nella Midah, Melech Ohev Tzedakah Umishpat, il re che ama la giustizia e il giudizio. Chutz min Rosh Hashanah ad le'achar Yom HaKippurim. Queste due formule vengono cambiate dal periodo che va dall'inizio di Rosh Hashanah fino alla fine di Kippur, e al loro posto si recita Shetzrichin Lomar, bisogna invece dire Hammelech HaKadosh, quindi la conclusione della terza berachah dell'Amidah diventa Hammelech HaKadosh e Hammelech HaMishpat. Perché? Cosa significa? Invece di dire il Dio sacro si dice il Re sacro, e invece di dire il re che ama la giustizia e il diritto, si dice il re della giustizia. Perché? Fish e beyamim eilu, poiché in questi giorni, in quei giorni, HaKadosh Baruch Hu mare malchuto, HaKadosh Baruch Hu esercita e dimostra la propria maestà, l'autorità regale, lishpot et haolam, per giudicare il mondo. Ora la problematica alachica si presenta quando la persona per abitudine si dimentica di fare questa variazione. Come allora si dovrebbe comportare nel caso questo accadesse? Questa è la questione che adesso affronteremo. Se io faccio la tefilà, invece di dire a Melech HaKadosh, dico a Kel HaKadosh, come mi dovrei comportare? O vediamo. Im ta'a, se la persona per errore disse ve'amar Hakel HaKadosh, oppure oshehum mesupak, mesupak viene da safek, oppure se la persona ha il dubbio, non è sicuro, sta pensando, si è fermato un attimino, ha detto ma ho detto Hakel HaKadosh o ho detto Hamelech HaKadosh, non riesco a ricordarmi. Im amar Hakel HaKadosh o Hamelech HaKadosh. Allora, se ciò avviene, cioè il fatto che che nasce il dubbio, o il fatto che si ricorda di non aver detto la cosa giusta, toch che dei dibur, se ciò avviene in poco tempo da quando ha concluso la berachah, che si definisce questo poco tempo con, sì, qualche secondo, meno del tempo necessario per dire la frase Shalom Alecha Rabbi. Questo significa toch che dei dibur, entro il tempo della di questa dicitura, Shalom Alecha Rabbi. Si chiama questa è la frase. Come si definisce questo tempo? Toch che dei dibur, entro il tempo di parlare. Parlare cosa? Shalom Alecha Rabbi. Ok? E lo ripete però la... Aspetta. Alecha. Shalom Alecha Rabbi. Come Shalom Alechem? Shalom Alecha è singolare, Alechem è plurale. Se si ricorda entro questo brevissimo arco di tempo, allora semplicemente dice Hamelech HaKadosh Baruch Atah Hashem Hakel HaKadosh Hamelech HaKadosh, così, dimostrazione. Così va bene, si riprende subito, come se potesse ringoiare la parola e esprimere poi nella maniera giusta. E se invece uno so proprio si scorda? Aspetta. No. Sì. Ti scordi e vai avanti. Allora, im nisgar toch che dei dibur, abbiamo detto, se si ricorda subito, entro questo poco tempo, mer Hamelech HaKadosh, dice Hamelech HaKadosh, ve'en tzarich lachazor la rosh, e non deve tornare a capo della midah. Vechen hadin, è questa stessa regola secondo questa modalità, quindi che si è ricordato subito, si applica anche all'altra berachah che si cambia la conclusione, cioè a Melech HaMishpat. Ma se si ricorda dopo, aval im lo nizkar ad leachar kedei dibur, se non si ricorda che dopo il tempo di Kedei Dibur che è già passato. Asai. Allora nel caso di Hammelech HaKadosh Tzarich Lachazor le Rosh HaTefilah, deve tornare a capo della Amidah e riniziare da capo. Mipnei, poiché se Shalosh HaBerachot HaRishonot Nechshavot Ke'achat, l'abbiamo anche studiato all'inizio, che le prime tre Berachot sono considerate come un unico blocco. Allora l'errore in uno fa sì che bisogna tornare indietro al primo. Anche se Akel HaKadosh è il terzo, lo si riprende non dall'inizio di Atta Kadosh o le Dor Vador, ma all'inizio dell'Amidah. L'Amidah propria. L'Amidah propria. Sì, perché anche il Shaliach Tzibur, se sta ripetendo l'Amidah, durante l'Amidah della ripetizione, se invece di dire Amel HaKadosh ha detto Akel HaKadosh, deve ripetere dall'inizio, alta voce. La risposta. Valgono tutto quello che noi stiamo studiando adesso, a parte questo che hai detto adesso, no? Però tutte queste regole valgono anche per chi ripete? Quello che abbiamo detto fino adesso sì. Ora vediamo che c'è una differenza più. E in quel caso, a filo, come dicevo, a Shaliach Tzibur, Bachazarata Tefilah, lo Shaliach Tzibur, cioè l'officiante, durante la ripetizione della Amidah, Tzarich Lachazor LaRosh, deve tornare indietro a capo della Amidah, Utzrichim Lomar Kedusha Shenit, e si ripeterà anche la Kedusha, visto che lui concluderà di nuovo a Melech HaKadosh, si ripeterà anche il Nakdishah e la Kedusha. Aval, però, Be HaMelech HaMishpat, nel caso della seconda variazione della Barakah nell'Amidah, cioè HaMelech HaMishpat, al posto di Melech Oev Tzedaka o Mishpat, Afilu Yachid, anche colui che prega da solo, l'individuo, cioè non l'ufficiante, l'individuo, non deve tornare a capo. En Tzarich Lachazor Afilu Leota Barakah. Non deve neanche tornare indietro a capo della stessa Barakah, per ripetere solo quella Barakah. Per esempio, se Kegon Sheizkir Tevat Melech Bebrachazot, Kevan Sheizkir Tevat Melech Bebrachazot, visto che ha comunque fatto riferimento alla parola Melech, re, in questa Berachah, perché anche tutto l'anno si dice Melech Ohev Tzedakah Umishpat. Solamente per sottolineare di più, durante i 10 giorni di Teshuvah si dice Melech Hamiham Melech Hamishpat. È più sottolineato l'aspetto regalità, ma anche tutto l'anno si dice Melech Ohev Tzedakah Umishpat. Di conseguenza non deve tornare indietro se ha sbagliato su Melech Hamishpat. Ok? Bechol Hashanah. Se una persona in altri periodi dell'anno, in tutto il resto dell'anno, se si sbagliasse dicendo in Ta'a, se si fosse sbagliato Ve'amar e avesse detto HaMelech HaKadosh, no. Se tu a Pesach dici HaMelech HaKadosh per sbaglio, oppure il giorno dopo Kippur, per abitudine sei già abituato a dire HaMelech HaKadosh, viene il giorno dopo Kippur, oppure l'Arvit, proprio alla conclusione dopo che è conclusa la Neilah, ti metti a dire Arvit e dici nella tua amidà di Arvit, invece di dire HaMelech Akel HaKadosh, come dovresti dire? Dici HaMelech HaKadosh, oppure HaMelech HaMishpat. Cosa si fa in questo caso? Allora vediamo l'ultima frase. Bechol Hashanah im ta'a ve'amar HaMelech HaKadosh HaMelech HaMishpat eino tzarich lachazor, non torna indietro. Rimane valida la Berakha anche se c'è stata una variazione che non serve. Ok? Così dice qui sulla questione della Kel HaKadosh ci sono però, c'è da approfondire se tutti sono d'accordo con questa affermazione. Su Amel HaMishpat sembra di sì. Allora, quando è Shabbat, durante i 10 giorni della Teshuvah, la Rosh Hashanah, Kippur, c'è un'ulteriore variazione. Allora, Shabbat, Arvit. Shabbat ve Arvit significa l'Arvit è il venerdì sera. Bevirkat me'en sheva, nella Berakha che rappresenta le sette Berakhot, e cioè La berachà che si fa dopo la Amidah di Shabbat, al posto della ripetizione, come se fosse una piccola ripetizione, Magen Avot Bidvaro, eccetera. E lì si conclude con Akel HaKadosh, non si conclude, durante la berachà si dice Akel HaKadosh En Kamou. Akel HaKadosh En Kamou, Ameniach Leamo, così si canta a Roma, no? Allora invece di Akel HaKadosh si dice Amelech HaKadosh En Kamou, nello Shabbat Teshuvah, cioè si chiama quel, il nome dello Shabbat che viene nei 10 giorni della Teshuvah, durante questi 10 giorni. Allora lì si dice invece di Hakel HaKadosh, HaMelech HaKadosh, anche lì. Di nuovo, Beshabbat Arvit Bebirkat Me'en Sheva, nell'Arvit di Shabbat, nella Berachah chiamata Me'en Sheva, perché è come un riassunto delle 7 Berachot dell'Amidah, Shabbat le Berachot dell'Amidah sono 7, non 18, non 19, Magen Avot, eccetera, Vechule, Omrim Gam Ken Bimkom Hakel HaKadosh, HaMelech HaKadosh. Si dice anche lì, come nell'Amidah, al posto di Akel HaKadosh si dice HaMelech HaKadosh. Però in questo caso, se l'officiante im ta'a, se avesse sbagliato a Shaliach Tzibur, ve'amar e disse Akel HaKadosh, im nizkar miyad, se si ricorda, se si accorge subito, Toch Kedei Dibur, entro il tempo di Kedei Dibur, come che abbiamo descritto prima, Choser Veomer HaMelech HaKadosh, allora torna a dire HaMelech HaKadosh subito, come abbiamo anche detto prima in quell'altro caso, Avale Acharkach, ma se si accorge solamente dopo il tempo di Kedei Dibur, allora Eino Choser, non torna indietro e non lo ripete. Ora, durante la Amidah, sia giorni feriali che Shabbatot e Rosh Hashanah e Kippur stessi, Shabbat, uno Shabbat c'è, nei 10 giorni della Teshuvah, oppure se ci sono 2 Shabbat come quest'anno, che c'è Shabbat subito dopo Rosh Hashanah e poi Kippur e Shabbat, quindi Shabbat. Abbiamo 2 Shabbatot nei 10 giorni della Teshuvah, si aggiungono anche alcune altre aggiunte alla Amidah. Noi abbiamo parlato della Berachà che subisce una variazione, che sono 2, Akel HaKadosh e HaMelech HaMishpat, HaMelech HaKadosh e HaMelech HaMishpat. Ma oltre a questo ci sono delle frasi che noi aggiungiamo all'interno della Amidah. Zochrenu Lechaim, che è all'interno della Berachà di Magen Avraham, la prima Berachà. Poi abbiamo un'altra aggiunta nella seconda Berachà, di Mechaye Ametim. Guarda il libro. Non ho capito il senso, quale di tutti e 2 Shabbatot? No. Tutti i 10 giorni della Teshuvah. Ascolta. Tutti i 10 giorni di Teshuvah, da Rosh Hashanah fino a Kippur, indifferentemente se si tratta di Rosh Hashanah, Kippur, giorno feriale o Shabbat, sì. In tutte le Amidot sì. Ci sono quelle seguenti aggiunte. Okay. Una è Zochreinu Lechaim, nella prima Berachà dell'Amidah. Sochrenu Lechaim, questa riga, poi Mihamocha Avarachamano Avarachamim, nella seconda Berachah, e poi avvicinandoci alla fine dell'Amidah abbiamo altri 2 inserti, Uchtov Lechaim Tovim Kol Bene Beritecha, prima della conclusione della Berachah di Modim, e prima di Sim Shalom, Besefer Chaim Berachah Veshalom, iscrivici nel libro della pace e della vita, eccetera. 4 inserti. Ma dopo un motim c'è pure questo di Shabbat Teshuvah, e non tutti lo dicono. Ah, okay. Comunque, sì, eventualmente c'è anche a Shabbat Teshuvah, solo nello Shabbat, un'ulteriore aggiunta. Zechora Chamecha. Ah, questa però è. Che cosa? Arvit Shel Shabbat. Ok. Infatti Shabbat Shuvah. Ah, okay. Comunque in ogni Amidah abbiamo almeno 4 inserti aggiunte. Okay. Ok? Cosa succede se la persona si dimentica di inserire queste aggiunte? Questa è la halakha che affrontiamo adesso nel paragrafo 5. Seif Hei. Im Shachach, se la persona avesse dimenticato Zochrenu, che è la prima, o Michamocha, Uchtov e Besefer Chaim, Velon Isgare non si è accorto di aver dimenticato. Ace Amar, finché non ha detto Baruch Atah Hashem, ha già detto il nome di Hashem per concludere la Berachà nella quale avrebbe dovuto inserire quella aggiunta, Keivan She'amar et Hashem, dal momento in cui ha menzionato il nome di Hashem per concludere la Berachà, dicendo Baruch Atah Hashem, Gomeret HaBerachà, conclude quindi la Berachà, per esempio Magen Avraham, Umit Palel Kaseder, e continua a pregare secondo l'ordine normale, Ve'enza Richla Chazor, senza tornare indietro. In altre parole, tra la variazione di Akel HaKadosh HaMelech HaKadosh e HaMelech HaMishpate e queste aggiunte qui, c'è un livello inferiore di importanza. Perché per queste, una volta conclusa la Berachà, non si torna a capo. Ma questa è la parte sua, però. Tutti i 10 giorni, da Rosh Hashanah fino a Kippur. E, però andando avanti, le aggiunte, se me le ricordo, le faccio le altre. Assolutamente sì. Non è perché col fatto che ho saltato una, allora dico faccio la midah normale. No. Ah, okay. Assolutamente no. Non è come gli alevi avò. Cioè io faccio questo. Questo, giusto? Sì, esattamente. Aggiungi Zohreno Lechaim, tutto regolare con queste aggiunte. Micha Mocha, sì. Questa. Ora, Vechen. Im shachach lomaru vechen ten pachtecha. Questo è un riferimento alla tefilah di Rosh Hashanah e di Kippur stessi, in cui la tefilah segue un ordine, non un ordine diverso, ma subisce una variazione, nel senso che la berachah di Amelech HaKadosh, quindi la terza berachah dell'Amidah, nella tefilah del giorno di Rosh Hashanah e del giorno di Kippur, in tutte le tefilot, è molto allungata. Noi inseriamo tutta una liturgia per poi concludere Amelech HaKadosh, non subito, come sempre, sono due righe, abbiamo fatto già Amelech HaKadosh o Akel HaKadosh. E questa sezione di liturgia si apre con le parole Uvechen ten pachtecha. E tu pertanto imponi il tuo timore a Kadosh Baruch Hu su di noi. Se la persona si è dimenticata di fare tutta questa parte, ok? E però ha concluso Amelech HaKadosh, come è giusto concludere in questo periodo, allora in quel caso la sua midah è valida. Quindi se si è dimenticato di dire Uvechen ten pachtecha vechatam, ha concluso la berachah con Amelech HaKadosh, vafilu lo amar adain rak Baruch Atah Hashem, anche se ha solo detto Baruch Atah Hashem e si è detto non ho fatto tutto il Uvechen ten pachtecha, conclude comunque Amelech HaKadosh, chotem Amelech HaKadosh veomer atah bechartanu, e va avanti con la midah dicendo atah bechartanu, non torna indietro. Questo significa che questa è un'aggiunta molto importante, ma comunque se la persona ha detto la parte più importante, che è la conclusione della Berachà, Baruch Atah Hashem HaMelech HaKadosh, allora non torna più indietro in questo caso. Uno si chiede, scusa, Rosh Hashanah, hai il libro di Rosh Hashanah, no? Ho già pensato. Ok, perché noi conosciamo una realtà diversa, come noi usiamo i libri di Tefilah e come si usava una volta. Noi abbiamo il lusso di avere per ogni festa un altro libro. O anche se abbiamo un unico libro, ma abbiamo la Amidah tutta ripetuta, stampata nuovamente per quel giorno. Ok? Allora voi dovete sapere che una volta, se andate a vedere dei libri più antichi, non era così. La stampa era molto più costosa di oggi, le possibilità erano minori rispetto in questo contesto. Era tutto un libro. Molto spesso era tutto un libro, ma tutto un libro in che senso? Nel senso che se lo Shema è già stato stampato nell'Arvit dei giorni feriali, mica te lo ristampa nell'Arvit dello Shabbat. Vai a pagina. Allora tu, per esempio, fai Arvit dei giorni feriali, poi per l'Amidah vai a cercare l'Amidah del venerdì sera. Tanto tutto il resto è uguale, a parte a Roma che c'è l'Arvit diverso, però in tutto il mondo Arvit di tutti i giorni dell'anno è uguale, a parte l'Amidah. Ok? Allora mica veniva stampato tre volte Arvit. Certo. L'Amidah per molti versi è uguale tutto l'anno. Qui c'è un'aggiunta così, qui c'è un'aggiunta. Allora le aggiunte magari alla fine del libro c'è tutta Uvechen ten pachtecha. tutta la cosa da inserire per Hashanah, però uno si è dimenticato di girare le pagine, è andato avanti. Certo. Quindi era molto comune che potesse accadere una cosa del genere. Per noi sembra strano leggere una halakha così, invece non è strano per niente. Per non parlare di quando non avevano i libri proprio, di tefilà. Ok, questo è quando avevano già i libri, quando i libri stampati non c'erano, non è che ognuno aveva i manoscritti di tefilà. Bisognava studiare, conoscere o vedere insieme diverse persone in un unico libro, non lo so, non era semplice. In quel caso era infatti non tutti conoscevano le tefilote, infatti l'idea della ripetizione dell'Amidah era ancora più forte come validità, come necessità per uscire infatti l'obbligo della tefilà. Dicevo, ma in quel caso molte persone non sapevano neanche leggere, diciamo. Vale che chi ufficiava pregava pure per gli altri in questo sì, caso? Sì, se loro ascoltavano, sì, rispondevano a me, questo è proprio il motivo per cui si ripete l'Amidah. Ma anche perché l'Amidah non si può fare a memoria? Sì. Non è che non si può fare. Non devi sbagliare le parole. No. È meglio leggerlo dentro perché così giustamente non sbagli e non salti, eccetera. Mm-hmm. Però non è che è un divieto. Ah, ok. È su Shema? Vuol dire a memoria Shema? Io credo che è meglio leggere tutto dal libro. Perché si evita, ed è scritto anche, è preferibile leggere dal libro. Secondo alcuni anche aumenta la kavanah quando lo leggi dal libro. Cioè ti distrai di meno. Esatto, infatti, quando tu leggi a memoria, distrai. Significa che sei molto abituato alle parole, le sai bene, quindi le puoi dire a memoria, ma significa anche che non ci devi neanche pensare per dirle. Quindi puoi pensare ad altre cose mentre dici le parole. Magari il mettere a fuoco le parole nel libro possono essere un ulteriore aiuto per evitare distrazioni. Ora, molti usano che alla conclusione dell'Amidah, Besiu Mashmonesre, Yesh Mesaimim, c'è chi usa concludere, Ose Hashalom, invece di dire Ose Shalom Bim Romav, nei 10 giorni di Teshuvah, Ose Hashalom Bim Romav. Vieshe in Ammeshanim, ma c'è chi non fa questa variazione. Ela Omrim Amevarechet Amo Israel, Ba Shalom, Vach Bakadishim Omrim Ose Hashalom Bim Romav. Ma lo dicono alcuni solo nel Kaddish. A Roma dicono? No. A Roma non credo. Non credo che a Roma si dice Ose Hashalom. Ma non devi guardare su quello, devi guardare su quello che differenza c'è tra Shalom. No, sto dicendo questo rito qua. Ose Shalom. Ma lo devi guardare su. Ha Shalom è la pace con l'indicativo. E quello invece pace. No, Shalom, noi sì, non diciamo se ha Shalom. Comunque ma diciamo sempre Ose Shalom. Allora, paragrafo 7. Se Rosh Hashanah dovesse capitare di Shabbat, non come quest'anno, Im Chal Rosh Hashanah be Shabbat, se cade Rosh Hashanah di Shabbat, Yesh mekomot sheomrim lechuneranena kemo b'shar Shabbat. Alcuni usano dire lechuneranena per la Kabbalah Shabbat come tutte le Shabbatot. Yesh mekomot shematchilim mizmor le David. In altri luoghi si usa saltare la prima parte della Kabbalah Shabbat e iniziare da mizmor le David direttamente. Yesh mekomot shematchilim mizmor shir yom Shabbat. C'è chi salta ancora anche le Chadodi e iniziano direttamente da mizmor shir. Chol makom yachazik beminagav. Ogni luogo si tenga con i propri minagim, si attenga ai propri minagim. Il mio non parte da lui. Eh? Se ne parte da lui. Leachar gemar tefilat arvit, beleil rishon. Dopo la conclusione di arvit, la prima sera di Rosh Hashanah, nohagin lomar, si usa augurare uno l'uno l'altro dicendo, lomar kol echad chaviro, Leshana tova tikatev vetechatem, che tu possa essere iscritto e sigillato per un anno buono. A una donna si dice velanekeva umrim tikatevi vetechatemi, che è il femminile, che possa tu essere iscritta e sigillata. Il giorno dopo, avalbayom, quando è il giorno di Rosh Hashanah, e numrim, già non si dice più questo augurio, Fisce kvar nigmera haketiva, perché l'iscrizione è già stata conclusa kodem chatzot hayom, prima del mezzogiorno, prima del mezzogiorno lachko. Ubelel sheni yeshno agim leomro, ma c'è chi usa ripeterlo di nuovo la seconda sera di Rosh Hashanah, chi le fa amim nidonin beyom sheni. A volte il giudizio può aver luogo il secondo giorno di Rosh Hashanah. Allora, per il dubbio, si augura di nuovo anche la seconda sera. Ora, la sera, la prima sera di Rosh Hashanah, biseudata laila, durante la seudà della sera, nohagin si usa la sozzi manim le shanatova. È consuetudine fare alcune cose che spungano da segno, siman, segno, simbolo quindi, per un anno, un augurio per un anno buono. Per esempio, tovlin per usata mozi bidvash, molti usano intingere il pezzo di pane della mozi nel miele, o altri nello zucchero. Ve'achar she'achal kazait, e dopo che ha mangiato il volume di un'oliva, kazait, quindi un minimo alachico, allora fa anche una preghiera, Omer, Yehirazon, Shetechadesh, Aleinu, Shanatova, Metuka. Alcuni usano dire questo augurio, che Hakadosh Baruch Hu possa, che tu possa rinnovare per noi, che tu faccia rinnovare per noi un anno nuovo, un anno buono, scusate, e dolce. Tova, Umetuka, buona e dolce. Dopo di ciò, Ve'acharkach, Tovel k'tzat tapuach matok bidvash. Molti usano intingere un po' di un pezzo, una fetta di mela dolce nel di nuovo nel miele. Mvarech labore priaetz, visto che non fa parte del pasto mangiare un pezzo di mela, allora si fa la beracha, anche se abbiamo già fatto a mozi, si fa la beracha labore priaetz e lo si mangia. E di nuovo si ripete il Yehirazon, la formula di preghiera che abbiamo menzionato prima. Ve'achar kach omer gam ken Yehirazon vechule. Si ripete il Yehirazon. Ve'noagin le'chol rosh shel ba'al chai. Si usa mangiare, mettere a tavola, mangiare la testa di un animale, a secondo dell'usanza, chi l'agnello, chi il montone, chi il pesce. Ve'omim Yehirazon shen yel rosh. E si dice Yehi Ratzon, che sia la volontà di Hashem che noi fossimo a testa e non a coda. Ecco il simbolo della testa. Che a Roma lo chiamano il seder di Rosh Hashanah. Non è un seder, però c'è si segue un ordine, diciamo così, un mini seder. Viesh le'ader achar Rosh Keves. E se possibile, è bene cercare di procurarsi una testa di una pecora o un montone, perché questo ricorda sia il simbolismo della testa, il fatto di essere alla testa, e anche ciò che è accaduto nel giorno di Rosh Hashanah, la legatura di Yitzhak e il montone che ha preso il posto del sacrificio di Yitzhak, che è successo a Rosh Hashanah. Ma c'è chi fa oggi, anche oggi, questo? Certo, che mettono la testa del montone sul tavolo. Sì, certo. Beh, l'abbacchio a Roma lo fanno. Sì. Come la testarella la d'abbacchio? La testarella si mette. I romani mettono la testa dell'abbacchio. Sì, la dividono, non è che la mettono proprio intera. Si mette dentro la pellicola. Si mette dentro al forno. Altri mangiano un po' di questo. Si mangia, come no? Sì. La lingua, l'occhio. C'è la buona anima di mia madre, mie sorelle. Quando la facevano era buonissimo, tanto c'era solamente quello, non è che c'era la bacchia, solo quello. Questo gli sto scherzando. Sì, sì. Tu scherzi. Queste sono usanze molto, molto antiche. E Gamochlin, inoltre, si mangiano Tana Yerakot, quelle verdure o i dorsali, cose simili, Shieshlem Bamdinahi, Shema Morele Tova, che nella lingua di quel luogo hanno un nome, questi cibi, che indicano qualcosa di positivo, prosperità, eccetera. Kmobim dinateinu, per esempio, nella nostra, lui dice, in terre ashkenazite, dove si parla gli yiddish, si mangia mern. Mern sono carote. Cosa c'entra carote con Rosh Hashanah? Perché in Yiddish mern significa carote, ma significa anche abbondare. Ah, ho capito. Una... Ok? Ma perché aceto non si mangia uno? Non si mangia. Adesso vediamo. Veomrim, i razzon, c'è il buse, chuyateno. E si dice una formula che fa una richiesta in questo contesto. Per esempio, nel contesto delle carote, che hanno il significato in Yiddish di abbondare, che HaKadosh Baruch Hu possa fare aumentare, abbondare le nostre, i nostri meriti. Ogni cosa abbinata, come anche tutti usano sia sefarditi, romani, dei cibi che hanno... Melograno. Quello nel mangiare, però, quelli che facciamo noi nel Seder, cioè nel Seder che si chiama a Roma, il Seder di Rosh Hashanah, ci sono cioè, la testa d'abbacchio... Poi si mette il porro. Sì, sì, sì. Cioè, sì, si mettono... sono, queste cose sono menzionate nello Shulchan Aruch. Poi lo devi fare un po' dolce. Così qui non lo riporta tutto, però nello Shulchan Aruch grande c'è scritto anche questo. Ah. Sì, sì. Perché in aramaico hanno un significato che... Tipo carti, mi sembra che è il porro. Carti significa che vengono tagliati fuori i nemici. Sì. Capito? Ci sono tanti significati e sì, è scritto. Delle cose... Voi non lo... gli Ashkenazite non lo fanno. No. Alcuni forse tra gli Ashkenaziti anche. Viesh noagin gamken lehader lechol dagim. Alcuni usano anche di procurarsi appositamente del pesce. Shiesh remes lifrot vilirbot kmo dagim. Per l'allusione data di poter avere il merito di moltiplicarsi come i pesci. Ben levashelo tam bechometz. Ma non li si cuoce nel... Aceto. Perché? Chi è nochlim dvarim chamutzim o meririm berosh hashanah. Anche limone. Hai capito il motivo? No. Qual no. È? Che non hai ascoltato. Ti ripeto. Chi è nochlim dvarim chamutzim o meririm berosh hashanah. Perché durante la Rosh Hashanah si evita di mangiare cose aspre o amare per indicare la dolcezza del momento e la dolcezza dell'anno nuovo che chiediamo. Ve'ochlim basar shamen, si mangia carne grassa e buona, ve'chol minei metikai, ogni tipo di dolciume. Gam noagin si usa ulteriormente, shelo le'chol egozim ve'luzim, di non mangiare noci e nocciole. Perché? Allora c'è un motivo allusivo e un motivo pratico. Motivo allusivo che è egos begimatria chet. La stesso valore numerico di egos, che significa noce, è chet. Chet significa peccato. Non vogliamo alludere ai nostri peccati durante Rosh Hashanah. Però c'è un motivo pratico. Vegam marbim ki chavenia. Quando mangi le noci e le cose simili, aumenta la saliva nella bocca, aumenta, e allora ti rende più difficile la tefilà. Perché siccome dobbiamo fare tanta tefilà, Rosh Hashanah e Kippur, e allora si evitano questi cibi che fanno scatenare la tosse e il raschiamento di gola. La sete. Che potrebbe, anche la sete potrebbe intralciare la preghiera. Yashlil mod alla Torah, alla Shulchan Torah. Bisogna studiare la Torah mentre si è a tavola, sempre, ma particolare attenzione bisogna fare a Rosh Hashanah. Venohagin k'tzat, e alcuni usano l'ilmod mishnayot masechet Rosh Hashanah, di studiare qualche mishnah dal trattato di Rosh Hashanah a tavola della Seudah di Rosh Hashanah. Abbiamo pure un italiano, il Talmud, quest'anno. Non solo la mishnah, anche il Talmud. Ce l'abbiamo in italiano. Allora concludiamo qui e poi, se Dio vuole, riprendiamo la prossima volta.